Questa iniziativa, ho scelto un giorno particolare, il 24 maggio, per ricordare Silvius Magnago, un personaggio molto importante, fondante per la storia del nostro territorio, per come si è sviluppato. Lo possiamo ricordare grazie al lavoro fatto dal nostro ospite, il Presidente Montefiori, che ha scritto un libro che è appunto l'argomento base della nostra serata, e ringraziamo con l'occasione l'assessora Marta Stocker che si è resa disponibile a portare la propria testimonianza, con lei che lo conosceva molto bene, che ha lavorato, è partita insieme anche a Silvius Magnago da giovane ragazza, ecco, in questa avventura politica che ancora oggi la vede attiva con grande energia ed entusiasmo, me lo lascia dire. Grazie. Ecco. Ein herzlich willkommen unsere Gäste. Das ist eine besondere Gelegenheit für uns, diese Buchvorstellung zu organisieren. Die Landesbibliothek hat einen anderen Sitz, aber wir organisieren jede Woche, zweimal pro Woche, eine Buchvorstellung, damit wir unsere Benutzer besser kennenzulernen und auch zu können und auch unsere Dienste kennen lassen, sagen wir so. Weil natürlich es ist wichtig für uns auch die Bibliothek ein bisschen hinaus zu bringen. Ecco, ancora un ringraziamento alla nostra assessora, al nostro ospite il Presidente Montefiori, al Presidente Roberto Bizzo che ha voluto partecipare a questa nostra iniziativa. Vi leggo un messaggio dell'assessore Tomasini che non può venire questa sera, ma ci ha mandato un comunicato. Ringrazio la biblioteca Claudia Augusta per aver organizzato questa bella opportunità di confronto e ringrazio l'autore Montefiori e l'assessora Marta Stocker. Conoscere e approfondire la figura di Magnago è fondamentale per i cittadini di tutti i gruppi linguistici. Se noi oggi possiamo vivere in un contesto autonomistico così avanzato e godere di questo benessere è grazie al lavoro di persone come Magnago. In questo senso, un sentito grazie va a Umberto Montefiori, all'assessore Stocker e alla biblioteca Claudia Augusta. Abbiamo una vetrina con alcuni libri e una cosa in particolare, che siccome abbiamo ricevuto il fondo Magnago in lingua italiana dagli eredi ancora qualche anno fa, abbiamo anche una velina di un articolo che poi ha mandato al Mulino, alla casa editrice Mulino, per un contributo su un saggio di storia, e quindi abbiamo la copia, ecco, trovata, e siamo contenti, ecco, di avere un originale anche da chi l'ha scritto, di suo pugno, insomma, quando elaborava questo contributo. Grazie a voi, tornate a trovarci. Grazie. Se io proprio devo iniziare, posso iniziare? Io posso solo dire che mi sento veramente onorata di poter essere qua stasera con l'allora presidente del Consiglio Provinciale Umberto Montefiori, come all'attuale presidente del Consiglio Roberto Bizzo, a presentare un po' questo libro, però innanzitutto di poter parlare di Silvius Magnago. Domani è di nuovo la ricorrenza della sua morte, per quello ho scelto questa data. Mi sento ancora adesso molto vicino a questo uomo che ha pensato, dal punto di vista mio, sempre al suo Südtirol, al suo Sudtirolo, è poco a se stesso. E credo che questo un po' l'abbiamo visto anche dal suo fisico, l'abbiamo capito un po' anche dal suo fisico, che è stato uno che si ha dedicato totalmente a questa terra, al benessere futuro, sperando a quello di questa terra. Per fortuna aveva ancora tanti anni, dove poteva anche capire che tutto il suo operato aveva un risultato molto positivo per la gente di questa terra. lui era un uomo per me in quasi tutti i sensi un modello di un uomo politico, e io credo che lui ha vissuto la sua vita era così come era perché lui sapeva di essere un po' da esempio, e lui si comportava sempre così sapendo che tanti sono le persone che si prendono esempio dal suo comportamento. Io l'ho ricordato anche in questo libro un po' in diversi episodi, in diverse situazioni, dove si può capire quello che per lui è stato importante, la giustizia per esempio, o dall'altra parte di non spendere troppo, e se spendere qualcosa pensare sempre agli altri. E ho cercato un po' di riportare qualche esempio di tutto questo in questo libro, dove Umberto Montefiori ha ricordato in gran parte non solamente Silvio Smaniago, ma ha ricordato anche, questo mi sembra essere molto importante, come uno che è venuto da fuori ha cercato, e questo fa tramite un, adesso non mi ricordo più, Anton, no? Si chiamava quell'uomo. Sì, Anton. Ecco, che ti ha raccontato e che ti ha insegnato un po' qualche cosa della storia di questa terra, e dove tu pian pianino sei diventato sempre di più un sudtirolese. Un sudtirolese, possiamo dire d'adozione, di che cosa sempre, però comunque un sudtirolese. E questo per me è stato anche molto importante quella sera dove noi siamo incontrati, e anche questo era in occasione di una presentazione di un libro in un'altra biblioteca, adesso non ricordo più dove. Sì, eravamo verso il tribunale, quella zona nella però nella nostra sede vecchia. Ecco, c'era okay. Di Gesaro. Ok, era la di Gesaro. La di Gesaro, sì. Che ha presentato quel libro di Calabrò, no? Quello serio. Ah, ecco, sì, quello serio. Sì, quello serio. Libro serio, ecco. Pesante. È proprio dopo quella serata poi è nato l'idea di questo libricino dove io ho scritto una piccola parte dove Umberto ha ricordato l'Alter Obmann, e io all'inizio, per dire la verità, non ho capito bene l'Alter cosa, e solo alla fine poi ho capito Alter vecchio Obmann, Alter Obmann, lui ha ricordato in una maniera talmente profonda, simpatica, che sono rimasta molto impressionata. Io posso non fare altro che ringraziarti per questo ricordo che hai riportato in questo libro. Mi sembra tanto più importante che qualche libro scritto in lingua tedesca da un tedesco, perché credo che è arrivato, quando noi abbiamo scritto questo libro, ma anche quello di Calabrese è stato scritto, era il momento giusto di ricordare Silvio Smaniago anche da parte di un italiano, e questo tu hai fatto, questo ti fa onore. Io posso, come un po' mi posso chiamare figlia politica di Maniago, io ti posso solo ringraziare molto per questo. Grazie mille. Beh, insomma, io sono ancora al tatesino e... Scusa. Io l'ho patezzato adesso sul tirolese. No, perché... D'altra parte, una cosa che la dottoressa, l'assessore Stocca non ha detto è che quando ci siamo conosciuti appunto quella volta, il primo saluto è stato, dove tanto eravamo in un ambiente tipo stasera, dove appunto calabrese, io avevo di fronte, io ero in fondo, avevo ancora due gambe, il cane, ed ero andato per pura curiosità. E devo dire che davanti a me laggiù c'erano la dottoressa Stocker, diciamo guardando all'estrema sinistra, ma era all'estrema destra di là, poi c'era Calabrese, poi c'era la Giusi di Gesaro e poi forse c'era un'altra persona, ma non me lo ricordo. Fatto sta, ecco, probabilmente, fatto sta che parlando di Magnago, come succede qualche volta in Alto Adige, soprattutto con i vecchi italiani, perché i giovani magari non lo conoscono, ma qualche vecchio italiano, io ho persino conosciuto qualcuno, dice, ah sì, il fratello di Andrea Soffer, che insomma non ci sta niente, no? Non ci sta proprio, non ci azzecca, direbbe il buon Di Pietro. In quell'occasione, dicevo, Calabrese ha presentato un libro, io lo chiamo serio, nel senso pieno di documenti, fotografie, insomma, una cosa ponderosa. Questo qui è una cosa che uno aspetta l'autobus, che fa ritardo, lo legge e in 4-4-8 è in fondo. Però in quell'occasione appunto questo gruppo, non era successo come stasera anche con l'intervento bilingue, solo in italiano, e a un certo punto, se ti ricordi, sto pubblico, sto Magnago, ma chissà, forse erano del movimento sociale, va a capire. Insomma, hanno un po' rumoreggiato. Io, che ero già stato un po' in politica, io dico politichetta, ma non per offendere chi mi ha votato, ma perché insomma io ho fatto 5 anni, è morta lì, quindi non oso dire che ho fatto politica, però ero stato in consiglio e credevo di avere un vago polso della situazione. Allora, siccome mi dispiaceva che andasse un po' così a cacciare alla riunione, anche se non l'avevo provocata io, ho alzato la manina e mi hanno fatto parlare, ho detto guardate, io sono stato, a quel tempo il mio faccione era conosciuto di più, e allora la gente mi ha un po' guardato così, perché interrompi qualcosa, no? E quindi è stato un po' come buttare l'olio nella tempesta, no? Le onde un po' si sono calmate e poi io ho detto guardate, ho avuto l'occasione di conoscerlo e devo dire che con gli italiani, ho detto così, più o meno le parole sono quelle, non mi sono mai accorto che ce l'avesse particolarmente con gli italiani. D'altra parte lui è nato in una famiglia, diciamo, di ispirazione, insomma, anche se il cognome lui me l'ha chiarito, perché non sono mai entrato molto in confidenza, ma il mio rapporto con Silvio Smagnago si può dire che l'ho visto in tribunale, direi l'ho visto una 16-17 volte, di cui 10 belle toste, perché lui diceva quando lo andavo a trovare, ma presidente, so che era formalissimo, presidente abbiamo poco tempo, e io guardavo e dicevo vabbè, io sono qua che ascolto, ed erano le 10, l'orario era quello, a mezzogiorno e un quarto mi congedava, quindi diciamo che il tempo c'era, la tirava in lungo, poi io lì non parlavo molto, ascoltavo. Beh, vi garantisco che in queste 10 volte che sono andato, in queste 22-23 ore, l'uomo mi ha man mano conquistato. E siccome io poi sono ligure, tra l'altro ligure del Levante, attenzione perché i liguri ponentini sono gente seria, i liguri levantini, insomma, se avete una barca a vela e naufragate da noi, raccomandatevi l'anima a Dio, perché magari non vi ammazzano, ma la barca a vela non la trovate più. Quindi il Levante ligure è un po' pericoloso, insomma, è infido. E allora, siamo mezzi toscani, mezzi non siamo più liguri. Io poeticamente dico che la mia terra sarzana è quella zona benedetta da Dio che non è più Liguria, ma non è ancora Toscana, siamo lì. E vabbè, e allora calmate le acque, è finito tutto. Stavo per andare via e devo dire che la dottoressa Stocker, che è sempre, l'avete notato, no? È sempre una persona molto agile, ha fatto due passetti veloci, è venuta a salutare, ha detto ma chi è sto qua, no? E allora abbiamo chiacchierato un po' e io la prima battuta ho detto, dico, la dottoressa Stocker la mangia italiani e lei peggio di un toscano, proprio immediata, non li mangio più. Ma e da lì devo dire che è scoccata una scintilla, per me almeno, di simpatia, di grande simpatia. E con la dottoressa Stocker, ci tengo a dirlo perché io, scusa se dico l'assessore Stocker, io ho accarezzato un progetto per me immenso, lei ha mille cose da fare, ma proprio perché sono tutto sommato nuovo di questa terra, direi che in provincia è stato fatto moltissimo sotto tutti i punti di vista, ma forse il tentativo di creare un'anima comune un po', o quantomeno il più possibile che abbia delle attinenze, ecco, non l'ho granché notata, forse non me ne sono accorto, forse c'è. E allora, d'accordo con lei, ho detto, ma perché non cominciamo a parlare magari di qualche personaggio nel quale, se non completamente, ma ci possiamo un po' ritrovare, forse i tedeschi di più, noi un pochino meno, ma dico, perché per esempio avevo pensato proprio al dottor Magnago e dico, io farei qualcosa su Magnago, anzi qualcosa ho già fatto. La dottoressa Stoker, ringrazio il cielo che è una persona curiosa, l'intelligenza è curiosità anche, ha voluto quello che avevo già scritto, ah, mi piace, bravim, bravum. E io, che so in questo, devo dire, me lo dico da solo, non sono quello dell'orticello. A me gli orticelli non sono mai piaciuti. Mi piace l'Alto Adige anche perché è grande, è lungo, è una specie di Texas dell'Alta Italia, no? Quindi è una zona grande, comunque. E non lo dico perché sono qui in Alto Adige. Lei, gli ho detto subito, ma perché non aggiunge qualcosa a sto punto, no? Perché la prefazione, grazie, ma aggiungiamo, no? Perché, cioè, tutto sommato, io non avevo mica Dante Alighieri che aveva scritto la Divina Commedia, insomma, no? Quindi mi ero divertito, tutto sommato, a rendere omaggio a una persona che mi era piaciuta. Non ero poi, tra l'altro, potuto andare al funerale perché all'epoca ero alla Spezia e mi era molto dispiaciuto, e quindi ho scritto questo libro. A lei è piaciuto e siamo partiti così. Io poi devo dire che a un certo punto mi sono anche un pochino preoccupato, perché appunto la dottoressa Stoker, voi ve la dovete immaginare quasi come una specie di bel colonnello dei carabinieri, ecco. Perché lei sorride eccetera, ma è tosta, e la prima cosa che mi ha detto a proposito, dice, siccome io voglio aggiungere qualcosa, però mi piace come sono stati scritti i primi capitoli, mi piacerebbe che venisse così. Allora io, che tedesco sapevo, avevo imparato in consiglio provinciale, che ci ho messo una settimana, che quando senti dire io, oh, che sarebbe per me italiano no, vuol dire sì, è uno ya che si trasforma in oh, eccetera. Ci ho messo parecchio a capire, un qualche giorno. Ma poi lei cosa ha detto? Lei ha scritto in tedesco, benissimo, ma poi qualcuno doveva tradurlo. E allora me la sono cavata, ho fatto un tuffo carpiato, perché mi è venuto in mente che ho un figlio, lui sì che me lo sono goduto una volta a Castelmareccio, perché ve lo immaginate, uno di Spezia che viene catapultato qui, la prima volta nel 70 insieme a una marea di carabinieri arrivati qui perché c'erano un po' di bombette in giro e quindi bisognava venire qua, eccetera. Per me l'Alto Adige era Gran Premio di Merano, perché tutta l'Italia lo sapeva, e poco più. E quindi col tedesco gli dice, ma quando poi ho avuto, io ho tre figli, il più vecchio si chiama Renato, il primo, e devo dire che credo che sia praticamente un bilingue davvero, come io sognerei d'essere. E allora io ho sempre pensato così come gli italiani emigrati negli Stati Uniti, no? Immagino io così, che arrivavano, chi da Genova, chi da Catanzaro, e avevano figli nati lì o quasi, che dopo un po' parlavano in inglese fluente, un bel inglese, eccetera. Io me li immagino, questi emigrati, in adorazione di questi figli. E allora io mi sono ricordato che avevo un figlio che il tedesco lo sapeva, allora abbiamo fatto un lavoro grosso, perché la dottoressa Stocca ha scritto in tedesco, mio figlio ha tradotto in italiano, quel signore lì, e io poi ho dovuto un po' ritradurre quello che ha fatto lui, perché lui giustamente ha tradotto il più letteralmente possibile, e io invece avevo l'ordine di rendere la traduzione che assomiglia, cioè io scrivo un po' come parlo, ecco, cioè, e poi mi piace scrivere in maniera che quando uno legge non deve fermarsi a dire ma cosa voleva dire questo qui, anche se i toscani vanno molto a doppio senso, però l'importante è che il primo senso si capisca subito. Arriviamo a Magnago, se no faccio lungo e parlo solo di me. Quando per esempio, ecco, io ho la fortuna stasera di avere alcune persone a parte mio figlio, che mi conoscono da molto tempo, da più tempo da cui mi conosce l'assessore Stocker. È una persona di queste, è il dottor Pasquale, che io conosco da molto tempo, è un caro amico, l'ingegner Bizzo, che conosco da una vita, il mio carissimo, mi ha fatto due vignette fantastiche quando ero nella Lega, sì, sì, bellissime, devo dire, bellissime, e quindi mi capiranno se lo dico, cioè mi hanno conosciuto, quindi non posso barare, no? Nel senso che io fondamentalmente sono un po' curioso, ecco, cioè se voi mi sequestreranno mai e mi butteranno in una cantina, io credo che non tanto per scappare, ma la prima ora la consumo a vedere com'è fatta la cantina, eccetera. Quindi, entrato in politica, mi ricordo che una delle primissime cose ho imparato, chi volesse far politica, qua se lo ricordi, la persona da cui guardarsi, soprattutto, la più pericolosa in assoluto, è il number two, il secondo, quello che avete subito dietro. Perché solitamente in politica, l'ho imparato quasi subito, si può andare d'accordo con quelli degli altri partiti, ma nel tuo devi stare attento alle spalle immediate, perché, morto tu, paf, subentra l'altro. Quindi il tuo peggior nemico è il tuo, teoricamente, miglior amico. Poi ho imparato che stando nell'arma si imparano un sacco di cose, anche a fare, i comunicati stampa, quindi io lì mi sono trovato proprio alla grande, e ho avuto solo un'idea buona all'inizio. Devo dire che avevo conosciuto un certo Margheri, non so se qualcuno lo conosce, e lui da buon persona speciale di sinistra, meno siamo meglio è, quindi teneva le persone lontane in un certo senso, no, ma non lo voglio criticare, ma è un po' come il PD di adesso, no? Meno siamo meglio è. Da genovese, perché lui è di Genova. No, lui viene da Genova. Beh, allora, tra parentesi, sappiate che la Spezia verso Genova ha un sano antagonismo, odio, perché il porto di Spezia c'è ancora, perché un progetto genovese che considerava di fare una gallerietta sotto i Monticelli alle spalle del Golfo, il Golfo più o meno è fatto così, qui ci sono dei monti, qui passano i fiumi Vara e Magra, loro avevano semplicemente ideato una galleria che portasse i due fiumi direttamente nel Golfo, e dice, ma poi i genovesi sono un po' tiratini, dice ci pensa al fiume, ingrossamento dopo ingrossamento, nel giro di 20 anni il Golfo di Spezia diventa un bellissimo campo di grano e abbiamo eliminato un porto. Quindi noi per i genovesi non stravediamo. Ti provocavo. Sì, sì, no, ma lo so, io infatti mi hai fatto piacere, mi hai dato la palla, anche perché non lo volevo criticare, volevo solo dire che diciamo che tecnicamente io mi sarei sempre trovato abbastanza bene, a parte i primi anni giovanili in cui ero fervente, usavo molto bene la destra da ragazzo, poi però crescendo sono lentamente scivolato in un tranquillo soft centro-sinistra. E basta, allora l'unica all'epoca, se vuoi fare una corsa ci vuole l'automobile. Io mi ero messo in mente di diventare consigliere provinciale, l'unica automobile disponibile all'epoca, tra l'altro prometteva bene, era la Lega. E quindi io ho telefonato a Milano e mi dicono, scusa, tu subito imparato che in politica, scusa, diciamo, tu chi sei? Io sono Umberto Montefiore, vieni. Io vi garantisco, sono lì, sono veramente, ho capito cos'era la Lega appena arrivato, perché è arrivato in via Arbe, non era dove adesso, era la vecchia Lega, perlomeno palazzotto, arrivo a lei, c'è un tipo che sta alla porta, dico guarda, io mi chiamo Umberto Montefiori, vengo da Merano, c'è un appuntamento con Patelli, quello l'idraulico, e quello dice subito un attimo, e viene giù dopo un attimo la signora Milani. Chi ha fatto politica lo sa che nelle strutture politiche c'è poi sempre una colonna che magari non fa politica in un certo senso, ma la fa in un altro, che è l'impiegata di maggior importanza. La signora Milani dell'epoca era un po' il factotum amministrativo della Lega. Quella scende, mi vede e mi fa, caro sindaco, come va? Porca miseria, ho detto, ma l'ho fatto sindaco, è vero che nella Lega si fa carriera, ho fatto 3 ore di macchina, sono qui, bello come il sole, ero più magro, 2 gambe, capelli, ce l'avevo ancora, abbastanza scuri, E invece lei aveva semplicemente confuso in questa lega tumultuosa, in crescita violenta, il sindaco di lì vicino, che si chiamava Moltifiori, credo di Lodi, Moltifiori, lei, Moltifiori, Montefiori, no, non Biancofiore comunque, no, no, poi finale I, finale I. E allora insomma mi porta su e dice: non mi hanno chiesto vigliacco se l'hanno fatto un pezzo di l'abbonamento del tram, cioè io potevo essere Caccio Cavallo che si era svegliato la mattina e è andato lì, io alla Lega non ho mai dato un documento. Comunque parlo con Patelli, l'idraulico, e gli dico: ma io non sono esperto di politica, mi piacerebbe diventare consigliere provinciale per quello che sono qua, infatti dopo un anno c'erano le votazioni. E dice lui, dice: ma a me, ma chi se ne frega se non hai fatto politica? No, dico, ma per esempio, non so, c'avete un programma, insomma, io ho letto più che altro La Repubblica all'epoca, quello che sapevo sulla Lega l'ho letto sulla Repubblica. E lui mi fa: ma che te ne frega? E dico: come me ne frega? Mi fanno una domanda, ah, non c'è problema, rispondi quello che ti viene in mente di rispondere, meglio che ti viene, basta, finito. Questa qui era, è stato il mio viatico, sono tornato, sono arrivato qua, l'unica idea buona di dire a quei 4-5 accoliti che avevo all'inizio: con la stampa ci parlo io. Lì ho avuto una buona intuizione e basta. Ecco perché all'inizio, non volendo, mi intervista in una piazzetta. Poi ero molto, poi sapete cosa vuol dire aver fatto sul serio, ci credevo, il carabiniere. Quando poi diventi, come dire, non si dice ex perché uno lo rimane, è una malattia infettiva che non ti va mai via, però avendo, ecco, stasera poi da questo momento in poi devo stare attentissimo perché c'è un'altra persona che mi conosce quasi meglio di me, una certa Anna Katia laggiù in fondo, perché quando vivi con una signora da 2 anni e mezzo e lei è quella che è la tua segretaria, tutto, puoi nascondere la moglie ma la segretaria no, no. Quindi io starò attento, cara Katia. Allora niente, io torno qui, quindi ex caramba, senza legacci finalmente, a parte che ci stavo bene, a me la disciplina non è mai dispiaciuta, però sai com'è, di colpo scendi dalla nave, sei in terra e ti viene voglia di correre, no? E allora facevo cose estemporanee, per esempio se avete presente Cristo Re, uno dei primissimi comizi così improvvisati l'ho fatto in quelli giardinetti che sono davanti a Cristo Re, ma in maniera semplicissima, proprio alla leghista, abbiamo legato 2 spaghetti intorno a degli alberi, ci abbiamo attaccato i manifesti, abbiamo creato una specie di locale, vicino c'era Vide Bolzano 33 dell'eroico Boesso, e arriva la Figle, la signora Boesso, che fa l'intervista, no? E credo che fosse una delle primissime, poi detto fra di noi, io vivrei di interviste, però insomma, lì era all'inizio. E allora mi scappa detto e fa: ma Magnago, io non lo conoscevo, ecco la prima volta, e dico: ma sì, ma dico, ma Magnago è un nonno, anzi deve essere un bravo nonnino, non l'avessi mai detto. La Figle mi ha fatto una propaganda spaventosa, neanche l'avessi pagata, perché secondo lei poter dire di Magnago che qualcuno l'aveva definito nonnino, ma non io l'avevo detto non in tono dispregiativo, no, proprio le era piaciuto. Basta, poi quindi mi votano nell'onda della Lega, eccetera, eccetera, vado in consiglio provinciale, bla bla bla bla. Divento, passano 2 anni e mezzo e bisogna fare il presidente. Ai miei tempi, se vi ricordate, c'era vicepresidente la dottoressa Zandron, che aveva in coppia con lei un'altra verde che era la dottoressa Curi. Fra le due, giusto perché tanto Magnago lo conoscete, io direi che la Curi era una lama affilatissima, senza pietà per nessuno, ma sorridente. La Zandron l'avrei definita al massimo un bastonetto, insomma, ecco, così, ma indisponente in un certo senso per gli altri, cioè sembrava sempre incavolata, sempre arrabbiata, non so, stuzzicava l'SVP dove non serviva, non so perché l'SVP, cosa la vai a stuzzicare? L'SVP, no? È un gigante, poi tutto sommato se li lasci fare si danneggiano da soli alla fin fine, quindi è inutile che li vai a stuzzicare un elefante, che gusto c'hai, no? Ecco, allora c'erano la Curi e la Zandron, insomma, arrivava così, la Zandron era vicepresidente, automaticamente diventerà presidente. Ho scoperto che invece non la sarebbe diventata quando un certo Hubert Frasnelli, io purtroppo vi parlo di epoche andate, del quale non mi fidavo assolutamente perché è una persona squisita, attenzione, io adesso quando parlo di queste cose intendo sul piano politico, non sul piano personale, che per carità, Hubert Frasnelli è una persona squisita e guai, gli lascerei anche quei pochi soldi che ho, per dire fiducioso, ma politicamente no, perché Frasnelli, per esempio, io da lui ho imparato, Frasnelli era uno che in consiglio provinciale sembrava un gatto mezzo addormentato, no? Tranquillo. Poi però, di colpo, nel momento giusto si svegliava e dava una zampata. Un esempio, posso farvelo? Certo. Allora, siamo già io presidente. La Klotz mi chiede, verso le ore 13 qualcosa, quando rincomincia il consiglio, dopo un po' io farò la domanda per avere un'interruzione alle 17, perché dobbiamo fare la riunione insieme al gruppo. Va bene, io ero presidente, praticamente il presidente fa notaio più o meno, oppure può fare molto, ma lì vedremo. Allora, arrivano le 16, la Clozza, dice vorrei, eccetera, eccetera. Ah, scusate, subito dopo Hubert Frasnelli mi dice vorremmo interrompere alle 19, alle 16, alle 17, alle 5. Al che io dentro di me mi sono detto, vabbè, l'SVP che è il partito più importante, cioè chi c'ha i voti, gli vogliono interrompere, figuriamoci, per me va bene, la richiesta sarà accolta. Vado in aula, incominciano i lavori, la Klotz alza la mano, ecco, prego, e allora lei dice vorrei un'interruzione così così. Io, meno male che sono stato zitto, perché stavo dicendo, ma tranquilla, zitto, e Frasnelli tira sulla mano e dice, ah, questa è una brutta cosa, interrompere il lavoro del Consiglio non va bene. Non va bene, ci pagano per stare qui, ci pagano per lavorare fino all'ultimo minuto, l'SVP è un partito serio, guai al mondo interrompere. Abar, io difatti da quella volta l'ho chiamato Abar, perché poi lui finiva i discorsi con Abar. Però, visto che acconsentiamo, ma vi rendete conto? E allora lì ho imparato come bisogna fare un po' in consiglio, no? Quindi, e basta, poi sono andato appena eletto presidente a trovare... Ah no! Poi, quindi Hubert mi dice, guarda che vorrebbero farti presidente, però devi parlare un po' con Magnago, lì ti vuole intervistare. E io, figuriamoci, andavo a nozze perché il dottor Magnago mi incuriosiva. Io l'avevo visto, era una delle primissime persone viste qui, quando sono arrivato da Genova, tenentino, di prima proprio fresco fresco, e l'ho visto parlare vicino al monumento di Andrea Soffer, davanti alla stazione ferroviaria di Merano, e ho visto quest'uomo magro con una gamba sola, la destra, infatti quante volte ho pensato mi è piaciuto troppo perché io mi hanno tagliato la gamba destra, e quindi dico vuoi vedere che la simpatia per Magnago mi si è scaricata anche nella gamba, e quindi però vedevo un centinaio di persone circa, io ero lì che non capivo una parola di quello che diceva, zero, eravamo nel 70. Quest'uomo che parlava di Andrea Soffer, io capivo vagamente qualcosa, ma proprio, anzi, niente. Ma mi stupivano, a me, ligure, dell'arma, eccetera, abituato a politici che venivano insultati, inseguiti, la gente che andava dai politici solo per avere il posto, in favore, eccetera. Vedere quest'uomo lì, su un palco, con tutte le persone col naso là verso di lui, legate quasi magneticamente a quest'uomo, ho detto caspita, questo qui è veramente qualcosa di speciale. Poi ho chiesto ai carabinieri e mi hanno spiegato chi fosse. Quindi il mio primo incontro è stato nel 70, diventato, vado a colloquio, se ve lo ricordate, visto da vicino, il dottor Magnaga aveva due occhi piccoli, vivacissimi, duri come il cristallo, secondo me probabilmente era un uomo molto buono, però gli occhi erano veramente da perforare le cose, io la vedevo così. E lui mi fa un discorsetto, e poi tutte le volte ci siamo ritrovati, lui tornava in argomento perché diceva io non riesco a farmi una ragione che un carabiniere, uno che non è di qua, vuole fare il politico, addirittura anche il presidente del consiglio. E allora mi ha fatto un po' di domandine, insomma così, l'unica cosa che mi ricordo aver detto, siccome avevo sentito tutte le storie su Zendron, e sui verdi che sono cristallini, sono una roccia. Se un verde dice no, è no per sempre, l'eternità, allora io ho detto, no, vabbè, io così, la dico così, poi ognuno... Allora io ho detto, l'unica cosa, io non faccio, non vorrei essere, non vorrei sottoscrivere nessun patto segreto. Ecco, io mi impegnerò a fare bene con il Presidente del Consiglio, più o meno è un pochino come fare il carabiniere, Walden così ha detto, oggi è il giorno peggiore perché abbiamo un Presidente del Consiglio, un carabiniere. Io farò carabiniere, darò la parola a chi la deve, insomma, mi comporterò bene. Nel modo migliore per rispettare il consiglio dove lavoro, per rispettare le persone che mi hanno votato e anche quelli che non mi hanno votato, e per una questione mia personale di prestigio. Sono Presidente del Consiglio e voglio fare bene, non voglio fare l'imbecille che viene qui a fare cretinate, quindi però non firmo niente. Basta, poi sono stato Presidente, appena diventato sono andato a trovare Magnago e per una decina di volte... non mi ricordo adesso gli intervalli, ma andavo a trovarlo e, come vi ripeto, ogni volta, cioè, abbiamo poco tempo, e poi stavamo lì 2 ore e un quarto. Non mi ha mai raccontato nulla di segreto, perché guardate che tutto si può dire di Magnago, forse che fosse, io l'ho conosciuto non giovane, la seconda volta, diciamo, la prima molto più giovane, ma certo che non era un, come dire, uno scioccherello, insomma, no, non era neanche il vecchietto che magari trova uno simpatico, l'ascolta e gli racconta cose che non racconterebbe mai. Ecco, quindi Magnago era veramente, secondo me, è stato veramente uno statista, una persona che io andavo a trovare volentieri perché, come ha detto la dottoressa Stocker, l'assessore, io devo dire che respiravo, ecco, da buon carabiniere annusavo in quest'uomo quella cosa che spesso in politica non c'è, c'è anche in politica, ma non è frequentissima, e cioè quella cosa, quell'onestà, quel gusto di fare il politico per piacere, perché dentro di sé lui aveva una carica che lo portava a quel paradosso incredibile, no? Non credo che l'abbia mai detto, sono come battuta, finché ogni sudtirolese avrà un elicottero. No, io avete sentito, ho detto sudtirolese, cioè Alta Tesino di lingua tedesca, per chi non lo sapesse, io quando vado a Roma dico sudtirolese vuol dire lingua tedesca, Alta Tesino vuol dire lingua italiana. E a loro dico, non ci dite sudtirolese perché è il peggio del peggio, perché ci dite, è un po' come quando io dicevo Oberösch, no, se io dico che siamo in Oberösch, prendo in giro, perché dico Alto Adige in tedesco. Quindi o mi dici che sono Alta Tesino o mi dici che sono Sudtiroler, come si dice? Sudtiroler. Ma se mi dici sudtirolese, vabbè, comunque. Niente, allora, stando lì con Magnago, devo dire che ho ascoltato tante cose bellissime. Io adesso rilascio subito la parola alla dottoressa Stocca e vi racconto solo una cosa. Credo che può essere divertente, nel senso che Magnago intanto sapeva tutto, praticamente mi è capitato quasi sempre che andassi lì e mi dicesse, a proposito, è successo questo, è successo quell'altro, abbiamo fatto persino una visita all'INS istituzionale e un certo Az, se ve lo ricordate, Roland Az, aveva fatto così, e lui sapeva tutto, aveva preso una contravvenzione tale che se non fosse stato il mio autista, lui ha fatto finta di essere autista, lasciavamo la macchina lì, perché lui è convinto che qui, lì, se vai forte, allora, eccetera, e vabbè. E niente, allora io volevo così fare uno scherzo alla Klotz, ma uno scherzo, attenzione, io ho cercato di farlo davvero nella maniera migliore, il Presidente, come potevo, sicuramente non l'ho fatto in maniera stupida, sciocca, o sono andato lì a fare, almeno ho cercato di essere il più serio possibile, però uno scherzo, diciamo così, blando, eccetera, non me lo sono vietato. Qualsiasi cosa io dicessi, se non veniva ripetuta in tedesco, la dottoressa Klotz diceva Auf Deutsch bitte, ormai era proprio una cantilena. Io avevo come vicino a me, c'erano Hans Berger a quel tempo, adesso il senatore, e c'era Roland Az e c'era anche la dottoressa Kaslater Moore, che diceva, perché il problema qual è? Che qualsiasi cosa si legga va letta nelle due lingue, no? Come ha fatto anche la dottoressa Trevisan qui stasera. E allora io leggevo in italiano, ma quasi sempre mi dicevano sia Berger, ma dai, che tanto hanno capito tutti, andiamo avanti, no? Così. E allora qualche volta io passavo, facciamo legge all'articolo 2. La dottoressa Klotz, io ce l'avevo dritta dritta come sono quei computer laggiù, la vedevo proprio senza alzare neanche la voce. Auf Deutsch bitte, auf Deutsch bitte. A me sto auf Deutsch bitte mi ha stuzzicato la mia toscanità. Io ho detto, io ti devo fregare. E allora avevo capito, creduto di capire, che la dottoressa Klotz identificasse l'italiano con la mia voce, cioè sentire la voce di Umberto Montefiori voleva dire sentire uno che parla in italiano, non in tedesco. Io difatti lì non parlavo mai, anche quel poco che sapevo non lo dicevo. Allora mi sono andato a casa, mi sono studiato la legge il giorno dopo, da mio figlio mi sono fatto mettere, perché sapete che il tedesco è una lingua bellissima, ma per noi italiani non è così facile come può sembrare, e ci sono per esempio quelle parole composte, no? Dove sono scritte tutte attaccate, ma guai a te se le pronunci tutte attaccate, e quindi sono attaccate nello scritto, ma gli devi dare la pausetta quando parli. Allora io mi ero fatto mettere anche quello, la pausetta, la cosa, eccetera. E il giorno dopo dico, di sicuro io continuo l'articolo 1, lo leggo io in italiano, e poi lo rileggo in tedesco. E la Klotz, 9 volte su 10, dirà Auf Deutsch bitte, e tutti a ridere, pensato io. E ho avvisato SVP e gli altri. Gli unici forse a cui non ho detto sono i Verdi, ma ho detto tanto loro seguono, eccetera. Allora a un certo punto, a me i Verdi non è che stravedo per i Verdi. E allora, per carità, così, en passant. E allora a un certo punto io vado lì, bla bla bla bla, e poi attacco col tedesco. Auf Deutsch bitte. E poi lei stessa mi ha guardato, è stata la prima a ridere, uno scroscio di risa, perché tutti, perché lei ormai avete, ecco, ho finito con questa piccola, tutto lo scherzo è stato questo, in 2 anni e mezzo non sono andato oltre. Io spero che la dottoressa Klotz mi racconti, se ne ha voglia, del fatto che il dottor Magnago, l'ho scoperto l'altro giorno, il motivo per cui, forse non lo sai neanche tu, ha fatto servizio militare all'inizio nel primo reggimento granatieri di Sardegna. Credo di averlo capito perché. Perché lui è nato nel 1914, 5 febbraio, quindi nel 18-19 aveva poco, però era già un bambinetto che poteva capire. Ho scoperto, non lo sapevo, mai, non avevo mai visto, che in il primo reggimento granatieri di Sardegna ha fatto servizio a Bolzano nell'immediatezza del fine guerra e c'è rimasto parecchio, e addirittura già che si trovava è andato anche a Innsbruck, quindi state anche lì. E allora credo che magari lui sia rimasto impressionato da qua, o comunque se lo sia ricordato, perché lui ha fatto servizio lì. Non era una scelta sua. Ah, basta. Era la sua statura, in fin dei conti, no? Sì, sì. Perché dovevano avere una certa altezza. Io mi ricordo bene questo, comunque, perché verso la fine della sua vita, logicamente, si ricordava sempre di più di tutti gli episodi di una volta e non quelli attuali. Io poi sono andata sempre, perché io conoscevo un po' tutte le sue storie. Quando sono andata ad incontrarlo verso la fine della sua vita, io sono andata sempre più indietro e ho cercato di dare ho iniziato con una frase e lui in quel momento si ricordava ed era molto contento di poter ricordarsi di un certo episodio. E io mi ricordo che sempre quando ho incominciato a dire primo reggimento, io non l'ho detto così, io ho detto solo primo reggimento, e lui granatieri di Sardegna, perché ecco, era questo tono anche militare con il quale poi lui si è ricordato di questa era il reggimento del re, sì, di questo reggimento nel quale lui dava servizio. Ve lo ricordate l'episodio di quando venne, che lui raccontava a Roma, con il duce e Hitler? La racconti, sì, che sì, bella, sì, sì. La racconti, Io adesso non mi ricordo più esattamente, ma mi sembra che hanno, perché erano, cioè, hanno fatto questo saluto, sì, no? Sì. Era una sfilata. Sì, in una perfezione tale che, esatto, il Luce l'ha fatto ripetere, che è una cosa normalmente impossibile, no? Sì, sì. Sì, sì, ecco. Era un presentatarma, sì, alla stazione, sì, di, sì, Termini di Roma. Sì. Comunque, orgoglioso, sì, ripetete. Ecco, questo lui ha raccontato sempre, poi anche quell'episodio quando lui è finito in galera durante il servizio militare, no? Ci sono diversi episodi dei quali si è ricordato molto bene fino alla fine della sua vita. Logicamente queste erano delle situazioni impressionanti e sono rimasti molto vivi nella sua memoria. Comunque io poi sapevo anche della sua casa di nascita a Merano, poi tutti gli episodi che lui ha vissuto in via Brennero a Bolzano, e ho cercato un po' sempre di parlare di quelle cose che lui poteva poi ricordarsi di quegli episodi, quando nel 18 per esempio c'era il ritiro dell'esercito austro-ungarico, e poi, anche se forse non si ricordava davvero da bambino, però logicamente gli è stato raccontato diverse volte, e per lui forse era poi diventato un quasi ricordo proprio, no? E tutte quelle cose verso la fine della vita erano molto importanti, e io avevo anche la fortuna di averlo potuto vedere ancora 3 giorni prima della sua morte. Io posso solo dire una cosa: mi sono rimasti in mente i suoi occhi, e in quel momento erano occhi diversi da quello che hai notato te, però logico. Beh, forse prima di morire, ma non erano cattivi, no, cioè la luce, però sono così impressionanti, perché io li vedo davanti a me ancora oggi come se fosse stato ieri, e quegli occhi mi dicevano che quasi come un testamento di un uomo politico che tutta la sua vita ha voluto dedicare a questa terra. Questo mi è rimasto in mente, e un po' sento, io ho anche un bellissimo quadro dietro la mia scrivania, e per quello lo vedo ogni giorno, e sono sempre in contatto con lui. Per me era sempre anche molto impressionante come lui ha cercato di convincere il suo partito della bontà di qualche decisione politica, per dire la verità, quando già sono stata in politica per tanti anni, alla fine mi sembrava qualche volta anche ripeteva troppe volte le stesse cose, e per me forse qualche volta è sembrato anche un po' pesante, perché ripetere sempre però adesso capisco perché lui è riuscito con questo ripetere le cose, di dare con questo un po' anche la sicurezza a se stesso della bontà anche di qualche argomentazione che lui ha provato e ha sempre più perfezionato, no? E questo è dall'altra parte, quando tu ripeti così tante volte le stesse cose, rimangono, alla fine arrivano, perché anche noi siamo fatti adesso un po' così: se sentiamo le cose una sola volta forse non stiamo attenti, la prossima sentiamo solo metà. Per quello serve davvero ripeterle diverse volte, che poi arrivano in tutta la completezza anche a noi altri. E in questo lui era impressionante, e adesso capisco anche per quale motivo era importante comportarsi così. Poi un'altra cosa che mi è rimasta in mente: lui quando scriveva una lettera cioè, per lui non era così, che poi la guardava così, alla, diciamo un po' su, come si dice, alla buona, alla buona, ecco, lui guardava ogni parola, ogni frase, e doveva essere precisa, perché lui era sicuro che una lettera una volta poteva avere una importanza grande, e per quello era importante guardarsela bene, perché poteva essere anche interpretata eventualmente male. Per quello guardare bene una lettera che scrivi per lui era importantissimo, importantissimo. Poi tutte le altre cose, dove noi due abbiamo scritto anche qualche, abbiamo raccontato qualche episodio, io credo che tu adesso devi raccontare quella del frigorifero, sì, perché quella però è esemplare per Maniago, è esemplare. Rapidamente, no? Raccontare quel frigorifero. E anche però vorrei dire due cose, e parto dalla seconda, che se non vi dispiace. Approfitto di avere qui l'assessora Stocker e il Presidente del Consiglio. Io vorrei che il Presidente del Consiglio, come autorità super partes, così lo vedo io, e la dottoressa Stocker, che magari dà un appoggetto anche lei, che a Merano, dove è nato il dottor Silvius Maniago, in Villa Marchetti, c'è tanto di targa, venisse proprio in questo afflato diverso, cioè in questo modo di sentirsi in casa propria tutti qui, perlomeno quelli che ci si vogliono sentire, aggiungere anche una targa con la traduzione italiana, perché Maniago non possiamo considerarlo un prodotto doc in lingua tedesca e basta. Quindi lui è stato un personaggio importantissimo per tutti, e io credo che sarebbe un gesto bello se a fianco, sotto, sopra, come volete, o rifatta di nuovo, ma ci fosse quello che è scritto anche in italiano. Uno passa e è vero che è bene che gli italiani imparino il tedesco, ma insomma, se magari anche un turista sappia che qui è nato Silvius Maniago, e quelle due o tre, quella frasetta scritta in italiano. Io faccio questa supplica alle autorità presenti. Mi sembra giusto, perché non bisogna regalare niente a nessuno. Maniago, io ve lo garantisco, ve lo dico da carabiniere e da ligure levantino. Era un uomo che ci teneva all'Alto Adige, alla sua Heimat, ma devo dire che non l'ho mai sentito dire cose contro gli italiani, o, assolutamente. Poi due, volevo dire che appunto non mi devo dimenticare mai, non dobbiamo dimenticarci, e questa è la mia convinzione proprio da ufficiale dei carabinieri, che altri che non fossero Maniago forse non sarebbero riusciti ad ottenere quello che ha ottenuto lui, ma senza quel contorno di tutto sommato sicurezza. Ecco, io credo che l'Alto Adige avrebbe potuto essere il Sud Tirol, avrebbe potuto diventare, anche se è vero che siamo cattolici tutti, eccetera, eccetera, ma una specie di Irlanda del Nord. Io credo che un merito grandissimo che io vorrei tributare all'Alter Obmann, al vecchio Obmann, quello di essere riuscito ad ottenere molto, ma senza spargimento di sangue. E chi ha vissuto quell'epoca forse può essere d'accordo con me, nel senso che credo che non ci sarebbe poi voluto molto per partire, no? Perché poi è un po' come in trincea, io ammazzo il tuo amico, tu allora, eccetera, va bene. Ultima cosa, frigorifero, questo devo ringraziare il dottor Boesso. Dottor Boesso, io lo frequentavo all'epoca, perché insomma tutto sommato era una persona simpatica, me lo ricordo, gigantesca, con quell'enorme sciarpa, eccetera, così via, e un giorno mi trova e mi dice, ho sentito che vai a trovare Maniago. Dico, sì, è una persona simpatica, cioè, fai bene, cioè, perché da Maniago c'è solo da imparare, ma già che vai, fatti raccontare la storia del frigorifero. Allora, dottor Boesso, commendator Boesso, era una persona simpatica, di spirito, eccetera. Però, sa, io ho detto, vuoi vedere che magari faccio anche una figura un po' stupida, no? Perché non riuscivo a mettere insieme dottor Magnago col frigorifero, no? In genere. E evidentemente era successo qualcosa. Allora io vado dal dottor Magnago, poi me l'ha spiegato comunque, dottor Boesso, perché io col cavolo da ex carabiniere sarei andato lì a dire mi pare il frigorifero, quindi mi ha spiegato, no, e poi ero presidente del consiglio, mica potevo fare brutta figura. E allora vado lì già sapendo, e dottor Magnaro, ho saputo che lei è questa storia frigorifero eccetera, mi ha detto un suo conoscente, un suo estimatore, fa chi con il dottor Boesso, e allora ha cominciato a raccontare, e vi garantisco che vedere Magnago, adesso non so la dottoressa, l'assessore Stocker cosa ne pensa, ma ripeto, io sono convinto che fosse un uomo buono, sicuramente, ma buono come usava una volta. Io per esempio, mio nonno dare un bacio a mia nonna, non l'ho mai visto, però probabilmente le voleva un bene matto, ci ha fatto anche quattro figli, eccetera. A quei tempi forse lui aveva questa educazione un po' rigida, e non era, diciamo, l'uomo da far battute, cioè, però, allora, si è messa a sorridere, ecco, io non l'avevo mai visto, ma proprio di gusto, no? Si vede che, e allora mi ha raccontato, la storia di Ferriufero è questa, che lui voleva fare delle riunioni che fossero produttive e che non si assentasse nessuno, ma cosa succedeva? Che siccome erano lunghe, ogni tanto qualche consigliere, qualche assessore si alzava e andava al bar. Poi sapete com'è, vai al bar, trovi un elettore, trovi una cosa simpatica, e insomma tardi a rientrare, e lui si innervosiva. Allora ha tagliato la testa al toro e ha comprato a spese, o sue forse, non lo so, ma comunque sicuramente, anche se non a spese sue, sarà stato un frigorifero rispondente nel modo migliore, buona qualità, prezzo, eccetera. Grosse, riempito pare esclusivamente con acqua minerale, gasata e non, quindi non solo liscia, ma niente birra, no, perché sennò uno poi perde l'attenzione. E notare, aveva fatto inserire un optional, la serratura, cioè il frigorifero pieno d'acqua minerale non doveva essere alla portata di uno che magari di passaggio, ma to, c'è un frigo, apre, beve, no, lui aveva la chiave attaccata a uno spaghetto, perché poi era un uomo semplice alla fine, quindi non si era neanche immaginato mai di comprare una cordicella carina, e la chiave, e aveva la serratura. Quindi quando Boesso voleva andare a bere qualcosa, l'acqua, dice posso andare a bere? Sì, allora gli dava la chiave con ordine di ritornare. Fa ridere un po', però guardate, io sono veramente, come dire, io adoro queste persone, perché un conto è dire che il denaro degli altri è importante più del nostro, non costa neanche tanto dirlo, no? È facile, è tranquillo, insomma, è quasi scontato, stucchevole, ma un conto è farlo davvero. E io credo che un altro dei grandissimi meriti di Magnago sia stato quello di condurre, cioè di essere sempre, come dire, attentissimo. L'avvocato Pasquali forse potrebbe dire con l'attenzione del buon padre di famiglia una volta, no? Che quindi lui, non lo so, cioè, perché poi insomma era un uomo che, dai, abitava in casa propria, c'aveva le porte che non l'aveva mai fatta aggiustare. Sapete com'erano le porte di casa Magnago? Io in italiano non lo so dire bene, ma in dialetto io direi svencate, cioè scardinate, perché è un'altra cosa, cioè le porte finestre, quelle grandi, non si potevano chiudere bene perché non combaciavano più, ma non perché erano vecchie, perché durante la guerra è stata caduta una bomba lì vicino e le aveva rotte, diciamo, guastate, e lui mi ha spiegato che non le ha mai fatte aggiustare, perché voleva ricordarsi anche attraverso quelle porte la cosa orribile che è la guerra. Perché da buon militare odiava la guerra, non ci credeva. Ecco, quindi queste cose qui. E lui stava attento a come spendere i soldi. E io gli credo proprio. E quindi guardate che è importante, perché la dottoressa Stocker, l'assessore, l'ha scritto nei suoi due capitoli, ha messo per esempio che spesso quando si finivano le riunioni lui era l'ultimo e spegneva la luce. E poi ha detto sempre, se uno di noi si dimenticava di quello, es verbrezelt alles. E questo si può dire quasi solo in tedesco, cioè che vuol dire, voi buttate fuori i soldi, non per una, cioè per niente, per niente. Io per quello anche adesso ancora, quando esco da una stanza, vado nell'altra, sempre, io adesso già, adesso ho un altro sistema, che sì. Sì, no, ecco, io devo andare. Sì, sì, bom. Prego. Non faccio io da qua. Devo andare, sì, ci vediamo. Ciao, ciao, ciao, fiti, ciao. Scusatemi, però devo andare un altro. Va bene, signore, la chiave non gliela ha dato. La chiave del frigo. Prima volevo proprio prendere un po' di acqua, però io ho detto no, adesso forse già tardi, prendo solo un bicchiere e questo impegno male. Vabbè, però dai, un battimano ci vuole. No, ma non perché non voglio bere, non ho sete. Poi sono un chiacchierone, quindi sono abituato. Dottor Mastrolia, Pitte, prego. Peccato che sia andato via dall'assessore Stocker, perché sicuramente non conosce l'episodio che io posso riferire su quello che era Magnago, uomo più che altro che non politico. Io ero preside al liceo Carucci e verso la fine degli anni 90 abbiamo organizzato una manifestazione che ricordasse gli 80 anni dalla fondazione del liceo, no? E avevamo scoperto, naturalmente nel momento in cui dovevamo rivolgere gli inviti agli ex studenti, che tra gli iscritti frequentanti del liceo Carducci, andando a guardare i registri dell'epoca, c'era anche Silvius Magnago. Quindi Silvius Magnago è stato studente del ginnasio liceo Carducci a suo tempo. Lo invitammo a venire alla manifestazione, allora purtroppo lui era non solo anziano ma anche piuttosto ammalato. Gli telefonai, lui mi rispose cortesemente, con molta gentilezza: presidente, la ringrazio per l'invito, ma la mia giovine età non mi consente di essere tra i vecchi colleghi studenti del liceo. Le faccio i miei auguri a lei come preside, a coloro che saranno presenti alla manifestazione, ma non potrò venire, seguirà telegramma. E infatti il telegramma dopo è arrivato, dopo qualche giorno. Questo per ricordare o sottolineare, non adesso ce ne sia bisogno, ma non c'è bisogno, l'umanità, la disponibilità, la lungimiranza. Poteva anche dire semplicemente, boh, chi se ne frega, non vengo, e basta. Sono ammalato, non mi interessa, eccetera. Invece accettò l'invito, però suo malgrado, per ragioni, lui non disse di malattia ma di età, scherzando, e questo per sottolineare anche la sua bonomia, la sua ironia, no? Di cui certo, certo. Ha fatto qualche citazione prima. Quindi due cose allora, ha frequentato il ginnasio di Ceuta Lucci, e questo non so se fosse noto ai più. Io non lo sapevo. Ecco, è una cosa che non si sapeva. E poi questa sua bonomia, questa sua lungimiranza nel aver accettato l'invito, ma non essere portato al tempo. No, era prego, di sicuro Magnago lo conoscono meglio di me anche altri, cioè io mi sono limitato a fare un po' così quello che ho sentito in queste conversazioni. Prego. Io capisco che non sta a me dar la parola, ma ben contento, faccio finta di essere presidente del consiglio. Sono molto autogestito, che autogestito. Io capisco che sono in mezzo che fosse messa, ma per carità, ma io la mia idea, dunque, io credevo di venire qua e di sentire parlare del dottor Magnago anche un po' affatto da una persona italiana, appunto, anche un po', Magnago non era proprio il nemico dei tedeschi, anche se sul libro c'è scritto Italien ist aber sicher ist meine Heimat, Österreich ist meine Heimat, l'Austria è la mia patria, poi insomma... Nel libro c'è scritto così? Sì, sì. Ma chi l'ha scritto sto libro? Che l'ho scritto io. L'ho visto, beh, lo stesso. Sul mio no, perché l'ho scritto io, ve lo garantisco. Ma ha insegnato il dottor Menapace che c'è gente che c'ha il negro dietro che gli scrive le cose. Ma siccome il mio è talmente poco che da negro non lo so scritto da me, quindi non mi ricordavo di aver scritto questa cosa. Ma comunque non era. No, ma è importante perché. Temevo anche che fosse alter, anche c'è scritto adesso, non vorrei sbagliare. No, vuole dire vecchio. Alter. Non altro, alter vuol dire vecchio. Io l'ho scritto vecchio perché Magnago parlava tedesco. Per me alter vuol dire, parlano anche dell'altro Magnago, di quel, per me è significato questo perché alter. Invece no, poi visto, parlano del vecchio Magnago, ma lo so che alter vuol dire vecchio, ma vuol dire anche alto Magnago. Io credevo che ci fosse un po' la convivenza, un po' che si parlasse in attuale, che ci sono ancora. Cioè, io non ho parlato di convivenza. Allora fortunatamente non ho fatto l'avvocato, perché sennò credo che il mio cliente che non ha fatto nulla sarebbe stato condannato a vita, perché credevo di avere fatto vedere la figura di Magnago proprio nella sua, come dire, cosa posso dire, la sua bonomia anche in un certo senso, perché non è mica un cretino, ma voglio dire, non ripeto, non l'ho mai sentito io almeno fare qualcosa di preciso contro gli italiani, eccetera. Addirittura nel libro c'è scritto, ha detto anche una volta, io ripeto da buon toscano, gli ho detto: ma è vero che la chiamano Magnago? Qualcuno la chiama Magnago. E Magnago si è fatto un'altra delle poche risatine dicendo: ma che le devo dire? I cretini ce l'abbiamo anche noi. Io ho conosciuto Magnago, mi ricordo del primi anni 80, quando si doveva fare la nuova giunta del comune di Bolzano. Io ero stato eletto consigliere, dovevo fare l'assessore, eccetera. Mi ricordo che veniva lui a dirigere l'operazione. E devo dire, devo riconoscere che aveva una grandissima autorevolezza, e poi sicuramente dobbiamo ringraziarlo, perché se oggi c'è questa autonomia, pensiamo se avesse perso quella famosa riunione in cui aveva Brugger come avversario, ci sarebbe stata l'autodeterminazione del centro. Quindi grandissimo merito, però aveva il suo caratterino, e una volta mi sono scontrato con lui sul problema dei misti lingui, di cui lui non voleva sapere. Allora mi ricordo un convegno che ci fu per Stendereccio, dicevo: questi misti lingui non esistono. Allora, scusi, presidente, ero vicino, proprio lei parla, figlio di un governo e di un'Austria. Io capisco che lui ha fatto una scelta, la mia madre l'ha, però proprio lui scagliarsi contro i misti lingui, dopodiché ho visto che era un po' scocciato di questa mia battuta, devo dire che complessivamente è stato un grande della politica. Ma io poi volevo dire, non volevo fare propaganda per Magnago, per carità, anche perché io SVP non l'ho mai votata, penso che morirò senza votarla, anche se devo dire che come partito mi sembra tutto sommato non male delle volte, però io sono italiano e voto SVP. Io poi sono fatto. Prima volevo finire con un piccolo concetto. Ah, scusi, io credevo che avesse finito. Prego. Era importantissimo. Si parla tanto, anche lei così, quelli che vengono da fuori tantissimo, no? Si parlano in tedesco, parlano in italiano, parlano in tedesco, ma le due lingue per me, da sempre, non sono solo due lingue. Prima di essere due lingue, quello lì è bilingue, le due lingue sono due psicologie. due psicologie diverse, mettere assieme quello diventano i mistilingui di cui parla il Signore, no? I mistilingui di psicologia, io se ne incontro uno, se è italiano o tedesco, non me ne importa affatto, vedo prima la persona che è sempre una persona. Allora, io credevo un pochettino questa comunque, perché per me è una cosa fondamentale. Lei ha detto ben piacere il figlio bilingue eccetera, ma credo, io non so se è bilingue o bilingue di psicologia, che in Alto Adige è tutta un'altra cosa, eh? E quello un po' io ho fatto fatica a vedere in Maniago un nemico degli italiani, no, appunto proprio per niente. Il mistilingue, ma giorno d'oggi è molto importante che si abbia la psicologia di convivere in pace con gli altri. Indipendentemente sono questi o quelli. Giorno d'oggi siamo. Ma credo che le potrebbe rispondere bene Manzoni. Non tutti. Belle nuove generazioni, guardi, le grazie fiori, che ciao. I ragazzi grazie, che oggi mi hai fatto piacere, ormai molto.